Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Potrebbe non tenersi a Bruxelles il prossimo vertice a 27 per decidere della Brexit. Da domani 1 luglio cambia la presidenza dell'Unione e all'Olanda succede per i prossimi 6 mesi la Slovacchia. Il presidente Robert Fico è atteso nelle prossime ore a Bruxelles, ma ha già lanciato una stoccata ai partner. Le decisioni cruciali sul futuro dell'Unione, come quelle sulla Brexit, non possono essere prese solo da 2 o 3 stati fondatori, dice riferendosi al vertice a 3 tra Germania, Francia e Italia, e ha aggiunto: ho proposto di organizzare il vertice di settembre a Bratislava, perché in questo momento Bruxelles ha una connotazione negativa. E a Bruxelles oggi intanto Turchia e Commissione Europea hanno fatto il punto sull'accordo per la gestione dei flussi migratori, ma la conferenza stampa si è aperta con parole di cordoglio per i morti all'aeroporto di Istanbul, parole del commissario europeo all'allargamento Johannes Hahn. I would also like to start by reiterating my condolences. Capiamo bene la situazione che state attraversando, ha detto, perché noi europei anche di recente abbiamo subito attacchi simili. Estendiamo le nostre sincere condoglianze alle famiglie e agli amici di tutte le persone uccise e auguriamo una pronta guarigione ai feriti. E intanto, con le nuove vittime oggi nel canale di Sicilia, sul fronte balcanico dell'arrivo dei migranti, il punto nel vertice. L'Unione Europea ha raggiunto oggi un accordo per aprire un nuovo capitolo negoziale, il 33, che riguarda questioni di bilancio e finanziarie. Con questo sono in totale 16 capitoli già oggetto di discussione nel processo di integrazione di Ankara nell'Unione, mentre 5 sono stati bloccati dallo stallo della situazione di Cipro. La decisione di aprire ad Ankara fa parte dell'accordo firmato a marzo per la gestione dei flussi migratori. Un altro punto è quello, chiesto dalla Turchia, dell'abolizione dei visti. A chi in conferenza stampa gli chiedeva se una liberalizzazione dei visti non possa costituire un lascia passare per i terroristi, Bert Koenders, ministro degli esteri olandese, a nome della presidenza europea di turno, ha risposto così. We cannot have our agenda being decided by terrorists. We have an agreement with Turkey. We're working on the benchmarks. Non ci faremo dettare l'agenda dai terroristi. Abbiamo un accordo con la Turchia. Ci stiamo lavorando e continueremo a farlo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È arrivato il sì dall'Europa al piano italiano per la banda larga ad alta velocità. La Commissione europea ha approvato oggi il piano nazionale italiano, piano da circa 4 miliardi di euro, stabilendo che è in linea con le norme sugli aiuti di Stato. Andrà a compimento entro il 2022, aiuterà il Paese a dotarsi delle infrastrutture necessarie, ha detto la responsabile dell'antitrust europeo, Margaret Vestager. In arrivo c'è un'altra novità, la firma digitale unica europea, al debutto domani 1 luglio, oggi la presentazione ufficiale. Antonio Samaritani, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, al microfono di Anna Marino. Da domani 1 luglio diventa sostanzialmente interoperabile la firma digitale a livello europeo per le pubbliche amministrazioni, il che significa che una pubblica amministrazione francese piuttosto che una pubblica amministrazione italiana accettano reciprocamente una firma digitale che arrivi da un cittadino o da un'altra pubblica amministrazione. E quindi questo è un primo passo fondamentale. La stessa cosa gradualmente avverrà anche per l'identità digitale, e cioè nel nostro caso per il progetto SPID, che è partito a marzo di quest'anno per noi e che è già totalmente aderente alla normativa europea, quindi ad EIDAS. Che cosa cambia per la vita delle persone, soprattutto grazie a questo regolamento EIDAS che garantirà un'uniformità di applicazione in tutto il territorio dell'Unione? Si dà concretezza a una politica europea, no? E quindi vuol dire effettivamente essere cittadini dell'Unione. Se non siamo ancora riusciti forse ad avere un documento comune europeo di identità, avremo però un'identità digitale che si espliciterà in varie forme ed elementi, tra cui la firma anche, che invece diventerà il passaporto europeo per le transazioni digitali prima dell'identità digitale stessa, quella fisica. Ci fermiamo qui per ora con l'Europa. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Come sempre l'appuntamento questa sera è effetto notte. Oggi U-Zone. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.